Ecco, noi Amedeo Fago, regista del film Io sono Tommaso, in programmazione all'Apollo 11 il 23 maggio. Amedeo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Lo raccontiamo brevemente? Raccontarlo non è facile, cioè è facilissimo perché, come dire, sono tre testimonianze praticamente che si alternano, legate a una problematica di un ragazzo, di un giovane tossicodipendente. E queste sono appunto tre testimonianze, una la sua, che è la preponderante ovviamente, e poi quella del padre e della madre. Sono tre punti di vista di una problematica molto drammatica in cui molta gente, io immagino, si trova, insomma, ecco. Credo che sia da questo punto di vista una tematica abbastanza importante. Sì. Amedeo, com'è partito il progetto, l'idea? Guarda, il progetto è partito, cioè questa famiglia è una famiglia di amici molto cari, molto intimi anche. Tommaso, questo ragazzo che ha vissuto questa esperienza e l'ho visto nascere, insomma, quindi diciamo c'è un legame affettivo anche molto forte. E l'idea è nata proprio, io ti dico anche in questa presentazione, non per fini prettamente cinematografici, ma per avere uno strumento come per dargli una mano, diciamo, in un momento difficile, però che poteva essere un momento di uscita da questo tunnel, e quindi in qualche modo dargli la possibilità di oggettivare un po' le sue problematiche e quindi avere un riscontro proprio di autocoscienza, di aiutarlo in questo percorso, diciamo. Poi questo materiale che era stato girato è stato messo, cioè poi è venuta l'idea di utilizzarlo anche perché era un materiale molto ricco, cioè perché questo ragazzo è un ragazzo di un'intelligenza un po' fuori dal comune, ma anche capacità di autoanalisi, che è venuta fuori questa grande capacità di analizzare a fondo le problematiche che viveva e quindi da lì, proprio vedendo questo materiale, abbiamo pensato di fare un film, insomma, quindi utilizzando anche le due testimonianze dei genitori e poi il padre che aveva da quando era piccolo, aveva anche girato dei filmini, eccetera. Io ho utilizzato anche in parte questo materiale, diciamo, di cinema di famiglia, diciamo, no? Sì, Un sì, sì. video, insomma. Amedeo, che tipo di esperienza è stata per loro e per te? Che tipo? Di esperienza è stata per loro e per te? Ma guarda, è stata un'esperienza che tra l'altro tutto il film è stato, questo materiale è stato girato qualche anno fa, è una cosa che ha avuto un'estensione molto lunga perché diciamo, è stata così all'inizio una resistenza diciamo da parte di Tommaso di rendere pubblica questa sua testimonianza e poi alla fine si è convinto, insomma, quindi io ci ho lavorato parecchio, insomma, un po' tempi dilatati, ecco, anche a distanza di anni a volte, tra un passaggio e l'altro, insomma. È stata un'esperienza che comunque è tuttora, perché secondo secondo me è un film che ha una sua vita interna, per cui è un'esperienza in corso ancora, perché il fatto stesso, ogni volta, ogni proiezione, io ricordo che ci sono reazioni molto forti, insomma, quindi è un'esperienza in corso, non lo so ancora. Senti, che percorso sta facendo il tuo film? Ma guarda, è stato presentato a questo festival al Maxi, dove è stata la prima presentazione, infatti ha vinto come miglior documentario inedito, perché al momento era inedito. Adesso questa è la prima proiezione che viene fatta dopo questo premio Maxi, e poi vedremo, insomma, no, diciamo, in questo senso dico, è un'esperienza ancora in corso, perché non so bene come andrà avanti, insomma, Senti, gli hai dedicato uno spazio web dove è possibile avere maggiori informazioni e dettagli? No, c'è soltanto una pagina Facebook, è stata fatta da Volunzi, credo, entra, c'è un evento Facebook fatto da Volunzi, insomma, questo. Ok. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Io sono Tommaso all'Apollo 11 a Roma il 23 maggio, alla presenza del regista Amedeo Fago. Amedeo, io ti ringrazio, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie.